andare alla zanzara porta sfiga, anche perché loro cercano questo. Allora, aspetta, questo lo sta dicendo Red Ronnie. L'ultima volta io mi sono stufato. L'ultima volta io gli ho dato fiducia e hanno fatto delle riunie sul terremoto, allora ciao. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Esagerando. È bene che qualcuno te lo dica, nel coro di quanti tra gli ascoltatori ti leccano il culo, non ho capito perché. Ti devi dare una regolata, ti devi comportare da uomo, non da maschio. Fronte di emancipazione del maschio dal cazzo, fronte di emancipazione del maschio dal cazzo, per poter accedere a dei livelli superiori cerebrali. Forza ha ragione la signora, caro Parenzo, forza ha ragione la signora, il fronte di liberazione dal pisello, sono le 18.37 e non possiamo esprimerci in maniera così greve subito all'inizio della trasmissione. Ti voglio fare sentire professor Gentilini, già sindaco di Treviso, a Piazza Pulita, ieri sera. Bulisano. Vabbè, non me ne frega niente da chi è stato intervistato. Tutto. Perché? Casa Pound, perché non gliene frega un cazzo alle persone che stanno ascoltando. No, Casa Pound, senti su Casa Pound, sugli alleati della Lega, senti. Come la vede l'alleanza con Casa Pound? Anche Casa Pound porta l'ordine, la disciplina e il rispetto delle leggi. Però Casa Pound in teoria non rispetta la Costituzione nel fatto di ispirarsi comunque al partito fascista. Ricordati che nell'io di quella associazione c'è prima di tutto lo Stato. Fascista io, però. E lo Stato, ma il fascismo avrà fatto degli errori ma ha fatto anche tante cose che vanno e che erano andate bene. Capito? Forse per Parenzo bisognerebbe arrestare pure Gentilini. Arrestiamo pure Gentilini, dai, su, anziano, arrestiamo pure Gentilini, su, mettiamo dentro pure il signor Gentilini. Rispetto per gli anziani. Oh, sono apparsi diversi signori Rom in qualche trasmissione. Senti qui quello che dicono, senti. Avete preparato questo striscione? No, Madonna, no, Auschwitz, state buoni, che ragazzi. Significa? Sì. Salvini è un razzista. Salvini ce l'ha con noi a morte, il signor Salvini. Si fa pubblicità con i zingari, a quanto pare. Oh, Gonzoni, ma che fate? No, vabbè, mi sembra una cosa ridicola questa che hanno messo così su quest'arte di questa signora. No, è la verità, non è che è una cosa ridicola, è la pura sacrosanta verità. No, ci facciamo pubblicità. Se avessi il potere, secondo me, anche faresti la stessa cosa. Poi a un certo punto arriva un Roma che dice: non vi deve interessare come paghiamo le auto di lusso, cioè non ci deve interessare come loro pagano le auto di lusso. Signor Poletti ha convocato e sempre Poletti, Poletti convoca chiunque ha lì. Convocato lì, signor Poletti. Allora spiega delle auto di grossa cilindrata. Allora, auto come dite voi, grosse cilindrate, tutti ci piacciono, figurati i giovani. Come non lo può avere un giovane? Sì, faccio una dipende come lo paga. Però, non devono interessare i soldi, dove sono e dove li prendano, perché voi non date un lavoro. E allora li rubano, allora è giusto rubare, qual è il problema? Aspetta, fammi parlare. Non è giusto rubare, okay, noi chiediamo lavoro, non siamo rubare. Ci ci due giorni fa che rompono la freccia dell'umanità. È finita l'era dell'olocausto. Siamo nel 2015. Ho visto il teatrino che ha fatto lei. È finita, abbiamo anche noi i nostri diritti. Scusi, non capisco più nulla. Scusate un attimo. L'era dell'olocausto è finita. Anche noi abbiamo i nostri diritti. Siamo cittadini italiani, appunto per questo. Diritti, sempre diritti, diritti, sempre diritti. Tutti chiedono diritti, tutti chiedono diritti. Oh, cosa è successo di politica? Che è stata votata la riforma alla Camera, la riforma costituzionale, chi se ne frega. Vi faccio sentire la Santanchè, che prima ha detto di disobbedirò Berlusconi e dopo invece ha votato contro la riforma. Oggi di punto in bianco votare il contrario di quello che hanno fatto i nostri senatori, votare contro, onestamente non credo, questa volta sarò disubbidiente col presidente Berlusconi. Per l'astensione o proprio per un sì? E invece oggi? Il mio è stato un voto di fiducia a Silvio Berlusconi, ma è stato un voto anche di dissenso alla linea del gruppo di Forza Italia, perché io ho delle convinzioni che sono assolutamente altre, ma una cosa è certa, che non sarò mai all'opposizione di Silvio Berlusconi. Il signor Bianco, Jerry White, Gerardo Bianco, Gerardo Bianco, ex deputato, presidente dell'associazione ex parlamentari, che prende un vitalizio di 3.500 euro. Beh, giusto, 3.500 euro di vitalizio parlamentare. Ma che t'ha fatto di pensione? Bianco, no, nulla, però dice che con 3.500 euro, se prende mezzo euro di meno, va alla mensa di Sant'Eustachio. Beh, questo ma signor, può essere adesso, il signor dire... Bianco dovrebbe avere rispetto per tutte quelle persone è che prendono signore, molto un... meno ma molto vabbè, ma meno chiaro, fare il populista. Chiaro, è un signore ma che ragazzi, ha fatto non se ne può bene più di questi, politica non se ne può più. Tutta la vita l'ha non fatta se ne può anche più, ha dai. Fatto politica bene, è una persona onesta, non è un ladro, è stato un bravo politico. Fammi sentire Bianco, ma io non ho incredibile uno che dice sei diventato una ghigliottina. Uno deve dire sono un privilegiato, sono un privilegiato, mi prendo questi soldi da privilegiato, punto e basta. Fossi vissuto all'epoca del terrore saresti stato lì sul patibolo. Ma è lui che fa casino, a far scattare le teste tagliate. Sentiamo Bianco, dai, sei di una truculenza inaudita. Sentiamo Bianco, dai, su. Per prendere dal vitalizio praticamente quello che viene richiesto per corrispondere alle varie domande di presentazione, io dovrei praticamente andare alla mensa di Sant'Eustachio, ero per soddisfare le richieste. Con 3.500 euro una persona che insomma come dire ha oltre 70 anni vive decentemente, punto, non può sottrarre nemmeno mezzo euro. Ragazzi, su, ma come cazzo si fa a rispondere così? Non puoi togliere mezzo euro da 3.500 euro. Devi dire sono un cazzo di privilegiato, ma sono uno che la vita gli ha regalato questo dono. Ma non dono, ha regalato, ma la vita... Dai, ma su. Dire, ma perché aspetta, però c'è anche una, tu alla c'è una questione fondamentale. C'è una questione fondamentale. Io ogni mattina vado a casa a prendere mia figlia e la porto a scuola e ogni mattina mia figlia questo faccio benissimo, ogni mattina mia figlia mi fa sentire questa canzone, ti giuro, mi fa sentire Candy. Ma non è Candy, mi fa sentire questa non canzone so, senti puffi, senti ascolta puffi, ascolta quasi. Ascolta vieni qua da mezz'ora ti stai truccando, 100 pose ti stai provando, palestra vai tutta l'anno e vuoi essere al centro dell'attenzione, tu sei proprio carino sai, non so specchio tu passa e spassa, il passaporto sempre pronto ce l'hai, dici sempre in America voglio andare, tu sei simpatico sai, tu sei gay, sei fotogenico sai. Tu sei gay, leone di Lernia. Ciao leone, mi stai traviando mia figlia, ti voglio ammazzare, ti voglio strozzare, ti voglio uccidere, maledetto. Stai zitto, che tua figlia è intelligente, che cacchio stai dicendo? Leone di Lernia su queste cose qua ha fatto impazzire il mondo, stai scherzando? Mi stai traviando la figlia. Ogni mattina la figlia a 19 anni sarà peggio di te. 9 anni, 9 e mezzo, che 19? che 19, magari 19 non è che ascoltava Leone di Lernia. Se a 19 anni ascolta Leone di Lernia, io do una botta in testa a mia figlia a 19 anni, scusami. Dai, no, no, tu gli devi fare un premio, non te lo puoi nemmeno immaginare. Tu devi fare un premio a tua figlia ascoltando Leone di Lernia. Avrà una cultura che non... Madonna, impazzirai. No, però scusami, ti pare normale? Parlare di te in terza persona? Chi parla in terza lui persona? Parla di sé in terza persona. Come parla? Come il Dino Dema? È importante ascoltare Leone di Lernia. Oh, chi è Davide questo sì, qua? Sì, è Davide. Ma è Davide. Davide, dimentica della radio. Davide sarebbe mio figlio, Davide di Lernia. Oh, cosa che ti ha dato il numero? Quel pornuto di Giba? Sì, è certo. E chi me l'ha dato? Se quel no? Bastardo, sempre queste cose qua. Va sempre gli scherzi, ormai non ce la faccio più. Beh, scusami un attimo, Leone. Io ho capito, stai traviando mia figlia. Io che cosa devo fare con questa canzone? Perché hai fatto sta canzone sui gay? Perché? Perché? Ma guarda che i gay sono le migliori persone che esistono in Italia. Ormai le persone sono tutti gay. L'uomo non c'è come? Più in Italia. Ma come? Tutti sono gay, no. Secondo te? No, tutti sono gay. Davide lì. Davide Parenzo è un po'. E lui è pure gay. Tu non te ne accorgi. Ma manco so. Per niente, caro. Guarda che lui c'ha l'osso sacro che ha scritto la messa in culo tutto rovinato. Scusi, professore di Lernia. Professor di qui Lernia. Qui dobbiamo far notare che ieri siamo in due giorni siamo passati Leone, dalla professoressa dai. Cancellieri, sì, ex ministro della giustizia, al mitologico Leone di Lernia. Io, francamente, siamo preferisco. Terra terra. Preferisco proprio. Leone come di Lernia. Terra terra, cornuto che non sia. Terra terra. Non glielo dire, terra siamo terra. Siamo rovinati. Ma che 50 anni di prostituzione, io stai scherzando? 50 anni di queste cose qua, di spettacolo, di radio, di televisione. Però scusami, Leone, dimmi una cosa, ma veramente io che cosa devo fare? Con mia figlia, 9 anni e mezzo, ogni mattina mi fa sentire sta micchia di canzone sui gay. Che cosa devo fare? Sarò costretto a spiegare che cosa è gay, cosa non è gay. Che devo fare? Dammi un consiglio, cioè chiedere senti un consiglio. A me, lo sa tua figlia già a 9 anni, 10 anni cosa sono i gay? Sono le persone più belle che esistono in Italia. Già lo sa, dici. Io... tu mi dici voi all'antica, non capite un cazzo. Il consiglio di Leone di Lernia è spiega a tua figlia gentilmente che i gay sono delle persone meravigliose, pedagogo. Giusto? Meravigliose. Perché l'uomo ormai è finito, l'uomo non c'è più. Beh, io non trovo un uomo tu? Come l'uomo non c'è più. Io non trovo un uomo che fa sesso con mia moglie che gli do 50 milioni di euro. Hai capito? Ma come 50 milioni di euro? vuoi trovare uno che fa sesso solo sesso, basta. Sesso, regalo mia moglie 4 figli. Luce, gas, macchine, telefono, ce li do tutti. Beh, 50 milioni mi sembra un po' troppo, però Leone, scusa. 50 milioni sarebbe 50 lire, 50 euro. 50 euro, ma con 50 euro tu vendi, cioè pur di accontentare tua moglie, da quant'è che non scopi con tua moglie, scusa? No, io, la vecchia che ho io è una bella donna, sono 50 anni di matrimonio. Come la vecchia? Come la vecchia? Mia moglie è già una donna di 65-70 anni. Hai chiamata la vecchia? Che sembra vecchio, hai capito? Non è come te, giovane, cioè, così. Cioè, ormai non fai più niente con tua moglie da anni. No, faccio. Domanda a Davide cos'è. Alla fine, dopo una settimana di disperazione con mia figlia, che la mattina, quando la vado a prendere a casa, mi fa vedere, guarda papà, apre il computer e mi fa vedere... la canzone di Leone di Lernia sui gay, alla fine l'ho dovuto chiamare. È con noi Leone, eccolo qui. Maledetto tu sia. Ciao, Giuseppe, maledetto. Maledetto. La persona più bella d'Italia, la persona più pulita. Maledetto. Ma come fai a campare intanto adesso che non fai più nulla? Cioè, alle radio non fai più niente. Il cinema. Io sono sempre in quella radio lì che sei tu, no? Oh. Lavoro sempre lì. Lavori più come vabbè, prima. Vabbè, faccio 10 minuti. Ma come fai a campare? Come fai a campare? Oh, io so 100 anni che mi faccio il culo, C'hai soldi da parte, dici te? No, ne ho rubato un po' ai politici perché sono tutti loro che se ne sono fregati. Quando loro andavano lì a fare le ferie, io mi ficcavo nelle case di loro, rifregavo i soldi e me ne scappavo. Potresti fare l'editorialista al Sole 24 Ore, volendo, visto il contenuto. Ma guarda, lo farebbe molto meglio di tanti altri. Conosce la vita, quella reale, sì, meglio bravo. Di tanti altri che fanno finta di non conoscere. Sì. Cruciano, io c'ho la laurea della strada, non c'ho la laurea della bocconi, dove fare i bocchini, capisci? Ho la laurea della strada, io non c'ho la laurea della bocconi. Senti una cosa, ma mi dicono che, cioè lo so in realtà, signor che Lernia, ma si può aprire con signor di Lernia alle 18:30 quando la gente ma vuol di sapere. Lernia che ha votato nella sua vita, l'ultima elezione, che ha votato Leo? Allora, ogni volta che ho votato io mi Grillo, sono fatto pagare, col cazzo io votavo se non mi davano i soldi. Mi hanno dato sempre il pacco pure i soldi. Se no a chi votavo? Che cazzo me ne frega a me della politica? Votato. Io sono apolitico, che mi fa cagare la politica. Beh. Senti molto una cosa, chiaro, chiarissimo. Molto chiaro. Scusami, ma è vero che Com'è che questi qua che fanno il servizio contro i taxi, tu sei ancora un po' tassista, no? Hai comprato una licenza, com'è di... Io ho fatto dei sacrifici per comprare le licenze ai miei figli, addirittura Ruber. Perché la chiami Ruber? Sta roba di coglioni che vuole liberare addirittura tutti i taxi. Sì. Secondo lui con la macchina mia posso fare il taxi, ma vaffanculo, dammi 200.000 euro che ho speso e fai che cazzo vuoi. Però scusami Leone, non è che l'hai messo tu quel cartello lì contro la signora di Uber, no? No, sei andato a rompere le balle a quella signora di Uber, che è l'amministratore delegato, là, dicendo: ma quella lì la devono finire con queste pagliacciate, liberare qua, liberare là, i tassisti fanno la fame, non guadagnano un cazzo, è inutile che stanno... Ho capito, però in qualche modo questa signora è stata minacciata, non è che sarei stato tu, no? No, io non è che minaccio, io faccio sparire completamente. Cioè la vorresti morta questa qua? Ma no, quelli che fanno delle cose anormali devono morire tutti, caro. Morire adesso. Scusami Leo, però mi hanno detto pure che tu hai un sacco di... uno dei tuoi figli a Cuba si sta sposato con una cubana, gli stanno fregando. Sposato con una cubana e praticamente ha venduto il tax per andare a mangiare a Fidel Castro, perché Fidel Castro è un rombacoglione che vuole sempre i soldi. Tutti i soldi tuoi vanno a finire a Cuba da tuo figlio che si è sposato. E non c'è più niente, non abbiamo più niente adesso, le sono fregato tutto, Fidel Castro e la sua donna e la moglie di mio figlio. Ma è una storia incredibile, cioè la donna di tuo figlio cubana si sta succhiando tutti i tuoi soldi, capito? Tutti i tuoi soldi. Lei prima li ha succhiato. Vabbè, lo sappiamo, abbiamo capito. Sì, poi capito. Adesso succhio tutto, non c'è niente da fare. Quel poverino sta lavorando ancora. Ma perché non te lo vai a riprendere a Cuba? Perché mio figlio è in Italia adesso, sta mandando i soldi a Cuba perché deve costruire l'hotel Hilton. Mamma mia, che storia. Parenzo, questa è la storia vera, storia di persone reali in carne e ossa. Francamente non me ne frega nulla. Ma perché non ti hanno chiamata? Perché non ti hanno chiamata all'isola? Perché non io l'ho fatto già all'isola di Favore 6 anni fa. Però quest'anno c'è Rock che dice che c'è il coso grosso, quello sempre. Lo sai. Abbiamo detto Leone, tu siccome c'è il coso normale non puoi venire. Non puoi venire, capito? Se non c'è il coso grosso non puoi andare. Guarda, io sono disperato, io non so come fare con mia figlia questo video, lo voglio cancellare. Tu che ti metti le tette finte lì, che fai la donna. Lascia stare quella ragazza lì che è molto intelligente, è intelligentissimo quella ragazza lì. È più intelligente di quello che posso. Guarda che se io non so, se no lì appena ti vedo ti do, non so, una decina dei miei. Lo sai dove t'ha visto una volta? Da un parrucchiere insieme a Dodi Battaglia. Sì, cioè Dodi Battaglia, perché lui fa il parrucchiere, sarebbe uno dei Pooh che fa il parrucchiere, hai capito? E lui è lì che c'è un parrucchiere, però Dodi Battaglia. Va battere a quel paese, va, ciao stronzo, ciao. Ciao, maledetto. Tutti e due andate a fare in culo. Ciao. Beh, amici miei, siamo al top. Siamo veramente al top. Ormai è tutto degradato. Hai paura oggi, Parenzo, eh? Dopo Leone di Lernia cosa verrà? Cosa arriverà? Hai un po' paura stasera, eh? No, hai un po' paura delle mie follie stasera? Hai un po' paura? Sempre, no, hai un po' paura di cosa mi posso inventare? Quello da lunedì al venerdì. Ti ho fatto arrivare giorno, Leone di Lernia a Radio 24, galli, capito? Galli della loggia. No, invece esulto per questi guai, scusa, che ha la signora Le Pen. Ma non me ne frega niente. Io voglio che tu, a tua figlia, la prossima volta, a tua figlia, che ha più o meno la stessa età della mia, fai vedere questa canzone del signor Leone di Lernia. No, manco per niente. Giorgio Gaber le faccio ascoltare. Io, Gaber. Iannacci, tu dovresti fare sentire questa canzone e poi spiegare tranquillamente che cosa significa gay. Ma quello molto lo sa serenamente già. A 9 quello anni. Lo sa già. Sono quello persone, già. Non come scrive quella professoressa in un liceo di Milano che andrebbe pizzicata dalle orecchie e redarguita pesantemente, nient'altro, per carità, che ha scritto che i gay sono praticamente contro natura, sono innaturali, ma sono delle persone come tutti noi che hanno preferenze sessuali diverse, e poi chissà, magari un gay potrebbe andare pure con una donna ogni tanto, no? Un gay uomo, e al contrario una lesbica potrebbe andare ogni tanto pure con un uomo, per cui chi se ne frega, chi va con chi, no? Certo, esiste l'uomo, esiste la donna, poi esistono anche i transessuali, tutti esseri umani. Oddio, no, ma chi sono diventato? Platinette con la canzone? No, tutti esseri umani. Tutti esseri umani. E che cos'è? Che è un bell'ambiente. Oh. Ambiente di maiali. Beh, no, adesso di maiali. Professor Taormina, dai. Tanto, il professor Taormina ancora rompe le balle dicendo che io non l'ho difeso sulla questione. L'ho lasciato solo sulla vicenda dei gay per cui è stato condannato. Io sono dalla parte tua, caro professor Taormina. Ancora lei scrive. Sono dalla parte tua, è una condanna sbagliata, ingiusta. Ma che devo fare? Che devo fare? Dimmi te. Devo ammazzare i giudici che ti hanno condannato? Ho fatto una battaglia in solitario contro Parenzo pure per andare contro quella sentenza lì, ma più di questo non posso fare, sinceramente, no. Oh, senti che cosa dice il tuo amico Monio Vadia, signor sì, Monio Vadia. L'ho sentito ieri a Piazza. Allora, signor Monio Vadia dice che siccome i Rom hanno sofferto nella storia, siccome sì. i Rom hanno sofferto nella storia, bene. Come un sacco di gente peraltro, non solo i Rom, cioè, come un sacco di gente, Buonanno andrebbe arrestato. Cioè, signor Buonanno andrebbe arrestato semplicemente perché ha detto che i Rom sono la feccia della società. Andrebbe arrestato. Andrebbe indagato intanto. No, lui ha detto arrestato. All'odio. Senti, Ovadia, senti, Ovadia, amico tuo, Monio Vadia. Sì, sì, ma l'ho sentito ieri sera. E allora? Soltanto per capire cosa hanno vissuto i Rom e i Sinti non basterebbero 500 vite per capire cosa ha sofferto questa gente. Non è neanche raccontabile. Ma quando un signore dice che i Rom sono la feccia, andrebbe arrestato in questo studio. Chi è il fascista? Chi è l'estremista? Ovadia! O Buonanno, che tu, Ovadia, semplicemente che venga, no, Ovadia, chiede semplicemente che venga applicata la legge, cioè almeno perché non hai che coraggio in base di dire alla legge Mancino che va arrestato subito. Ho detto che deve perché essere perché non hai il coraggio di non credo per chi ho a differenza chiamalo se è tornato dal circo libico. No, perché circo se è sì, perché poi parleremo anche di quella pagliacciata che uno però fa dire suo Ovadia. Col mitra in mano vicino a un posto è andato lì a rompere le balle in un contesto allucinante per sventolare la bandiera della Lega Nord. Ora, amico mio, ma voglio dire, no, hai incontrato di cosa, alti dignitari libici, alti cosa dignitari hai incontrato sì, ho alti visto dignitari le foto, libici. Dai, quelli lì non avevano niente da fare tutto. Beh, comunque, il giorno, la cosa incredibile, la cosa incredibile è che ancora Formigli, il conduttore di Piazza Pulita, debba scusarsi di aver invitato Buonanno. Cioè, questo mi appare incredibile. Mi si appare scusa per quel incredibile. Che ha detto Buonanno in quel contesto. Ma questo è una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca. Tra l'altro, il presidente della regione Toscana, Rossi, dice che è colpa di Formigli aver invitato Buonanno. Senti sì, che dice sentito, Rossi. Ma dai, su, ragazzi. L'ho su. Sentito. Ma non ci posso sopportare una sentito. Cosa di questo tipo. Ma dov'è la democrazia? Dov'è la libertà di espressione? Dov'è? Dov'è finita? Dov'è ma finita? Se uno dice una sciocchezza, si potrà dire che è una sciocchezza. Ma uno può dire no? che è una sciocchezza, non che quello non va invitato, però. Vabbè, questo è un altro discorso. Dai, su. Si sta perdendo tempo. Vi chiedo, credo che queste trasmissioni siano inutili e persino dannose. Dannose anche al dibattito politico. Ora è colpa mia. Non ci è consentito di raccontare. Sì, è colpa anche sua. Non ci è consentito di raccontare le cose come stanno, di quello che abbiamo fatto in Toscana. Io non andavo sulla voce della signora Meloni. A me questi che vanno alle trasmissioni pensando di stare, capito, al comizio del Partito Democratico, al comizio del Partito Comunista che fu, mi stanno sulle palle. Io ho grande rispetto per il presidente Rossi, eccetera, però stiamo a Piazza Pulita, stiamo in un talk show, ci sono i tempi no, del talk show, non li decide lui no, e basta, chiaro. Su questo, però no, tutto no, nasce dal fatto che hanno rimostrato aspetta. Giustamente quella foto, sì. la foto di in che? Cui Rossi faceva vedere i suoi vicini di casa. Chi erano i vicini di casa di Rossi? I Rom. Oh, i Rom. Ma senti questa cosa che ha detto Rossi, il presidente della Regione Toscana, che la nonna gli ha insegnato a temere. Senti questa sì, roba. Certo. No. Infatti, guardi, esatto. Qual era il problema? Non temeva gli zingari, ma mi ha sempre insegnato a temere i fascisti. Questo è il punto vero. Ma posso dire che questa è veramente una cosa ridicola? Cioè, sono da temere i fascisti e non gli zingari. L'insegnamento della nonna che ha vissuto in Emilia Romagna. Ma che vuol dire? Ma è roba dell'altro mondo, vecchia, la superata, nonna, finita. La nonna di Rossi non ha esistono il fascismo. Più i fascisti. Eh no, ma lui ti basta. Sarà contato un aneddoto di quando era giovane. Dai, lui, su, poi tu lui. Mi ridirai i fascisti, cioè, i comunisti hanno fatto la Costituzione, eccetera, eccetera. È un aggravante, secondo me, tra l'altro. È un aggravante, secondo me. Ho lottato contro il nazismo. È un aggravante avere fatto quella Costituzione, scena. Come tu sai, visto che hai studiato, c'è quella firma di un signore che si chiama Umberto Terracini, una delle più belle carte, è uno dei più bei documenti che abbiamo. Ha bloccato il paese per 50 anni. Ah, la Costituzione l'ha bloccata. Anche. La Costituzione. Ma stiamo scherzando. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Via libera di Montecitorio alla riforma del Senato, Renzi paese più semplice, sì della minoranza PD, Bersani è l'ultima volta, 5 Stelle fuori dall'aula. Forza Italia vota compatta no, ma solo per fedeltà a Berlusconi, lettera di 18 deputati, profondo disagio, l'ex premier, basta protagonismi e distinguo. Lega, scaduto l'ultimatum a Tosi, voci su una lettera a Salvini, ma il sindaco smentisce e il segretario nega l'avvio della procedura di espulsione. Atteso il verdetto della Cassazione sul processo Rubi, il procuratore chiede di annullare la sentenza di appello in cui Berlusconi venne assolto. Tragedia argentina durante le riprese di un reality della TV francese, due elicotteri si scontrano in volo, 10 morti, tra le vittime 3 simboli dello sport. Fa scandalo negli Stati Uniti un video che mostra un gruppo di studenti nell'università dell'Oklahoma che canta slogan razzisti contro gli afroamericani. Un colpo al cuore alla dinastia della Camorra, arrestati 42 affiliati al clan dei Casalesi, tra loro anche due figli dell'ex boss Sandokan. Ancona da Elvio, vai Elvio, vai. Eccolo, eccolo, eccolo. Dimmi, dimmi. Ciao caro Cruciani, ciao. Vai, vai. Senti, io ti volevo dire che il dottor o signor Bianco dice che non riesce a vivere con 3.500 euro al mese di vitalizio. Non ha detto se gli toglie come mezzo euro non campa. Ma come no? Io certo ho 836 euro di pensione, ho 70 anni, da 14 anni ho messo i primi contributi, il titolare di mio padre mi metteva i contributi anche a me, adesso corro sopra un taxi e prego il Dio che mi faccia guidare fino che moro sul volante. Perché? Perché se no non campo proprio. Mm. Quanto prendi di pensione tu, Elvio? Scusami. 836 euro. Capito? A te dovrebbero pesare qualche taglio della pensione. No, il signor Bianco che prende 3.500 euro e dice che se gli tolgono 50 centesimi. Direttamente. Allora, signor Bianco. Quello ha pagato i contributi. Jerry, ma chi se ne frega? Jerry White. Signor, perché tu, perché io non sto dicendo. Qui non si sta discutendo. Io non si sto discutendo. Ma quello ha lavorato per una vita. Ma voi mi vuoi ascoltare? Qui non ma si no, sta discutendo se è giusto o no il vitalizio di Bianco. Secondo me è ingiusto, ma lasciamo perdere. Non è quello il punto. I vitalizi se ne sono decisi loro. I soldi versati, il quantitativo di soldi versati l'hanno decisi i politici stessi ed è sicuramente una pensione più alta in rapporto ai contributi rispetto a quella di qualsiasi contribuente italiano, ma il punto non è quello. Il punto è quello che ha detto Jerry White questa mattina da Milan ed è esattamente quello che adesso vi facciamo ascoltare. Il signor Jerry White ha detto che se gli tolgono anche 50 euro, ascoltate, cioè 50 centesimi rispetto ai 3.500, dovrebbe andare praticamente alla Caritas, ha detto non so dove. Un altro, sentiamo. Per prendere dal vitalizio praticamente quello che viene richiesto per corrispondere alle varie domande di presentazione, dovrei praticamente andare alla mensa di Sant'Eustachio, ero per soddisfare le richieste. Con 3.500 euro una persona che insomma, come dire, ha oltre 70 anni vive decentemente, punto, non può sottrarre nemmeno mezzo euro. Non può sottrarre nemmeno mezzo decentemente, euro. Ovviamente. Ma come vive decentemente? 3.500 euro di pensione? Di pensione? 3.500? Io non ce la faccio più con queste cose. Parenzo, veramente non ce la faccio più con quello che dici. Sei diventato proprio. Fermi tutti. Un grillino, che cosa? Fermi tutti. Fermi. No, queste cose mi fanno venire il sangue al cervello. Fermi tutti. A Cruciani, ha decaduto. Cruciani, lei non mi è molto simpatico, però seguo la Zanzara dalle 6 del mattino a mezzanotte alla sera. Sweet, sweet Connie, and turn her act. She had the whole show, and that's a natural fact. Roma. Andrea, vai Andrea. Giuseppe, ciao, buonasera. Ascoltavo un'intervista per quanto riguarda il discorso del fascismo, sì, del fatto che ci siano più fascisti, eccetera. Io invece in realtà credo che ci sia ancora molta gente che ha un atteggiamento abbastanza indulgente nei confronti del fascismo. Mm. Io dico, al di là di quelle che sono state le, diciamo, le tre colpe principali, il fatto che fosse la dittatura, la guerra, la vergogna delle leggi razziali, cioè concretamente il ventennio fascista è da condannare per quello che ha portato proprio al paese concretamente, cioè siamo un paese arretratissimo. Sì, però Andrea, io abbi pazienza, io non posso fare alle 19:36 il dibattito con 3B storico sul fascismo, non me ne frega niente, dimmi quello che mi vuoi dire, che cosa vuoi dire? Che trovo che tutto che gli italiani che ci siano ancora in Italia pensate che abbiano un atteggiamento indulgente nei confronti del fascismo. Ma ho capito, ma esisteranno sempre gli estremisti, i fascisti, eccetera, eccetera. Ma no, ma non è per quello che non si va avanti, chi se ne frega. Non mai al meglio se continuiamo a pensare che la soluzione possa essere un approccio fascista. Vabbè, Andrea, tanto ti sento pure male. Marco da Verona, dai, Marco. Marco? Ciao, pavidi, siete due pavidi. Sì, pavidi, sì, su che pavidi. Cosa, su che cosa? Perché quando è intervenuta la Cancellieri, sia tu che Davide ovviamente, la Cancellieri ha cannato un congiuntivo in pieno. Sì, ma non me l'hanno detto anche oggi, sì, però ma non me ne sono accorto. E voi non avete fatto una figa, quando invece quando chiama qualche extracomunitario, tu lo correggi, ma quando figurati. Qualcuno parla con un accento particolare. Sì, è vero, ha sbagliato un congiuntivo. Vabbè, pazienza, ma io chi se ne frega? Io francamente accorto, se no io non me ne sono accorto, ma non me ne sono accorto. Grandi giornalisti, volevo capire, ma ha la laurea questa signora? Sì, ma sono cazzi nostri, allora sbagliamo i congiuntivi, signora. Anche noi sbagliamo i congiuntivi, no, allora? La signora, allora? Signora. Allora? Certo, per fare il prefetto, credo che la laurea ce la deve avere, per forza, no? È stata ministro degli interni, è stata... voglio dire, ha ricoperto una carica importante e non sa parlare in italiano praticamente, quando uno sbaglia il congiuntivo, ma l'ha sbagliato proprio... Sì, adesso non mi ricordo il pezzo, me l'hanno fatto notare oggi. Io dico, sul momento non me ne sono accorto, ero concentrato su altre cose, ma devo dirti la verità, me ne fotto, comunque te lo faccio riascoltare se vuoi. Sì, grazie. Sì, vabbè, adesso non subito, non è che lo devo andare a ripescare, che faccio? Sono un mostro qui, non è che ho i tecnici a disposizione 24 ore su 24, vabbè. No, sento qui, insomma, anche David che fa sempre il verso alle persone quando chiamano con un accento particolare, siciliano, gli fa il verso del siciliano. Va bene, Massimiliano, Milano, poi te lo faccio ascoltare. Massimiliano, vai. Sì, buonasera. A parte il fatto che è un'ora di attesa solo per gli innamorati, per cui è evidente che siamo veramente... Tu sei un innamorato, dunque sei un grande, sì, sei un grande, sono, vai. Assolutamente. Vai. No, volevo solo raccontare una piccola esperienza successa sabato pomeriggio a Roma. C'erano in metropolitana a Termini, sì, tre di quelle addette delle cooperative che piacciono tanto a Parento, che hanno cercato di verificare il contenuto di alcune borse di un paio di signore. Queste signore però non avevano bisogno, quindi due signori del Bangladesh gentili hanno invitato queste tre addette, sempre di quelle cooperative che piacciono a Parento, ad uscire dalla metropolitana. E queste per tutta risposta le hanno prima mandate a quel paese e poi sputato direttamente. Allora, se bisognerebbe imparare a chiamare le cose con il loro nome. Ora, non si può forse fare tutto un erbo un fascio, però sicuramente quelle tre persone addette alle famose cooperative di Parenzo... Ma che cooperative erano? Non ho capito. Le famose cooperative che vuol fare lui con i Rom, eccetera, eccetera. Vabbè, ma in questo caso non erano Rom, però. Esatto. No, certo che erano Rom, per questo erano addette. Erano cooperative, cioè sta scherzando, stava ironizzando. Sì, sì. Però so che questo viene solo bene a Parenzo, che è il più grande esperto di ironia della radio. No, anzi, apprezzo l'ironia, va bene. C'erano queste tre signorine che cercavano di fare questo. Quindi mi viene da dire che evidentemente quelle signorine proprio di lavorare in una cooperativa non c'avevano voglia. Ma figuriamoci se i Rom si mettono in cooperativa a lavorare, a fare. Perfetto. Non può esistere. Però mancava, però non c'era polizia, non c'erano polizia municipale di Roma, non c'erano addetti alla sicurezza. Vabbè, non è che la polizia municipale può essere presente in ogni angolo della strada, cioè, capito, di chi stiamo... Ma se non era per questi due signori, peraltro del Bangladesh, i quali poi hanno giustamente detto che loro sono spesso, siccome il colore della loro pelle è più scuro della nostra, sono oggetto di, come dire, la gente li guarda quasi male, eppure invece loro sono gli unici che hanno dato una mano. Allora, ciao Parenzo, cambierà idea? Ma figuriamoci se cambia idea. Ciao. Le grandi inchieste della Zanzara. Volete rimorchiare? Buttatevi sui colleghi. Nel 61% delle aziende italiane si consumano relazioni tra dipendenti. Certo. La città con più flirt, con più rapporti è Milano. e il luogo dove si rimorchia meglio, cioè dove rimorchiano meglio tra di loro, è il Sole 24 Ore. No, non è il Sole 24 Ore. Beh, sì, anche qua, ma insomma, abbiamo già dato da quel punto di vista. Il luogo dove si rimorchia meglio sono gli ospedali. Hai capito? Cioè, negli ospedali si tromba di più, tra infermieri, esatto. Di notte succede qualsiasi cosa negli ospedali, eh. Succede qualsiasi cosa, Succede qualsiasi cosa pure in questo building, volendo, nel Sole 24 Ore, però negli ospedali sicuramente succede di più, Sicuramente succede di più. Comunque, non è che queste grandi inchieste che fanno, adesso non so chi l'abbia fatto questa inchiesta. Sì, Libero forse. Cioè, non mi sembra una novità, cioè è chiaro che le persone si conoscono di più in ambiente ristretto e dunque le relazioni tra i colleghi sono più frequenti, ma di che parliamo? Dai, le grandi inchieste non so di chi stavolta. Qualcuno ha pure pagato per un'inchiesta del genere, da cui arriva il dato 61% delle aziende italiane si consumano nelle relazioni tra dipendenti. Vabbè. Massimo Padova, vai Massimo, vai. Sì, buonasera, grazie. Io volevo fare una domanda a Parenzo, perché sì, mi ricollego al discorso di prima che parlavate di un vitalizio o di una pensione di quel povero signore che prende solamente 3.500 euro al Jerry mese. White, io aprirei la segreteria telefonica su Jerry White, ma guarda che arriva, contro dire, Jerry White. Beh, è una persona, ragazzi, per bene, dai. Non ha mai rubato, sì, anzi, sì, no, un no, politico ma non ha mai rubato, stimato, ha lavorato tutta la vita, di grande professione. Non si può dire, non si può, ma non si può dire. Scatenando una canea stupida, sì, no, inutile, parecchio, non si può dire che per 50. Ma io manco lo conosco, peraltro. Ma vi dico che ve la state prendendo con la persona sbagliata. Perché Jerry White, 50. Io non me la ma sto è lui prendendo, che se la prende con se stesso. 3.000, sì, ma no, a domanda ha lui risposto in modo anche, come dire, ingenuo, se vuoi. Sì, ma Parenzo, dicendo in che mondo stai vivendo? Ma perché è un uomo che è diventato ricco grazie alla politica? No, questo no. E allora Parenzo, di che parliamo? In che mondo, di 3.000? In che mondo stai vivendo? È indecente, indecente quell'affermazione. Vabbè, indecente. Allora fate politica, poi non date più la pensione a nessuno, la faranno solo i ricchi. Posso, ma che c'entra? Posso parlare? Sì, dimmi, caro. Sì, dimmi. Tanto, sì, voglio dire, in che mondo facile, vive Parenzo? Cioè, si parla di 3.500 euro al mese. Mio padre, che ha lavorato, che sta ancora lavorando, ha più di 42 bene, anni, sì, diversamente, e ne prende 800, lui vive ma dignitosamente, sì, ma con 3.500. Non... Ma è chiaro che si vive anche con 1.200, c'è gente che poverina vive anche con 400, no, ma, sì, ma allora è evidente dire, non questa. Dire che non ha rubato niente o che ma o, dico o che si sta scatenando una caccia al politico in cui si mettono dentro tutti, e allora cos'è? Ma non c'entra niente, questa è l'affermazione del signor Jerry White, e fra poco ne ascolteremo un'altra da parte del signor Pomicino. Perché la gente su questo si scatena. Ma non è perché... che mi scateno su questo, è che non puoi dire delle cazzate del genere. Scusami, dai, Parenzo, su, ha detto una dicendo frase assurda. È dai, una persona, sì, che appunto, ha la... Allora, siccome far politica, montagna, che se ne dica è lavorare, adesso arriveranno. Sì, come? Parenzo, far politica non è lavorare? Sì, quelle scimmie, Parenzo, che chiamano. Sempre. Quelle io sono scimmie di Padova, che no? Chiamano. Scimmie io sono chiamano di Padova, tu parli sempre al contrario. Tu difendi sempre il contrario di tutto quello che si dice. Ma dipende, cioè, cosa si dice? Ma allora, come dipende? Ma dipende se uno della Lega, scusami, ad esempio, dice una cosa intelligente. Un attimo, secondo te cosa una cosa, secondo te una cosa decente, è decente il fatto che Gerardo Bianco, che prende legittimamente o no, questa è un'altra questione, 3.500 euro di vitalizio, dica che se gli mancano 50 centesimi di questo vitalizio va a fare la coda per dire ai poveri della Caritas? No, lo diceva come paradosso. È una cosa vergognosa. Punto e basta. Allora, caro Parenzo, uno dei personaggi più celebrati in questi anni, anzi questi ultimi mesi, da settembre in poi, il presidente della Sampdoria, Ferrero. Il momento dell'incontro con Fidel Castro e i fotografi. Beh, quello è pazzesco, prego. È una cosa che veramente penso che qualsiasi mi emoziono, perché ancora oggi stringere la mano a un signore come Fidel Castro lo auguro a tutti voi. Io gliel'ho detto a Moratti, caccia via quel filippino, no, che ha preso a fare. Presidente, come la... Lei ce l'ha con Tohir, presidente, attenzione, cioè, che è indonesiano, perché... peraltro, che è indonesiano, eh? È indonesiano, voglio dire. Ma non doveva difenderlo, no? Vabbè. Scusa, che viene da Indonesia, insulta. i festeggiamenti sotto la grandinata. Oggi alla Zanzara hanno fatto uno scherzo con la finta voce del presidente Ferrero che chiama Preziosi. Insomma, se ce l'ha con me è andata via l'audio, non ho capito niente. No, che insomma, Ferrero protagonista. Ora succede che Mario Giordano, direttore del TG4, ha scritto un libro che si chiama Pescecani. Tra i pescecani ha inserito anche Ferrero, sì. Strani giri e una compagnia aerea fallita, il lato meno divertente di Ferrero, in cui racconta il fallimento della compagnia aerea, i buffi che ha lasciato, eccetera, eccetera, eccetera. Il giorno in cui è diventato presidente della Sampdoria ha patteggiato una bancarotta fraudolenta, perché si era per una compagnia aerea, si è buttato nella gestione di una compagnia aerea. Lui sostiene di essere stato truffato, ma ahimè non è che uno compra una compagnia aerea come si compra, no? Un pacchetto di cioccolatini, anche perché è una cosa molto complicata. Lo sai prima anche come potenzialmente andrà. Esatto, e lì ci sono una serie di operazioni, insomma, che secondo me vanno conosciute per capire un po' che cosa si nasconde dietro cotanta simpatia. Allora, il libro di Giordano, Pescecani, è di Mondadori. Mondadori ha provato a invitare Ferrero a un confronto, cioè un dibattito. Alla presentazione del libro. Sentiamo la reazione del signor Ferrero. Sì? Presidente Ferrero? Sì? Sì, buonasera, qui da Mondadori. Volevamo chiedere una cosa, volevamo organizzare in occasione dell'uscita del libro I Pescecani una presentazione alla libreria Mondadori a Genova. Lei sarebbe disponibile con il direttore Giordano? No, io ho denunciato a tutti quanti, per cui non posso essere disponibile. Ma come ha denunciato? Io ho denunciato perché ha detto questo signore, oggi ha detto delle cose inesatte, furono querelato. Ma scusi, ma noi pensiamo di fare una presentazione di un libro? Voi fate male, perché voi avete fatto una cosa, avete permesso a un signore di scrivere delle nefandezze, delle cose non vere, e mi ha fatto una presentazione di me non vera, per cui andremo in tribunale su questa cosa. Ma la Mondadori è di Berlusconi, presidente Ferrero? Ma Mondadori fa essere di che pare, se la Mondadori fa scrivere un libro a uno che dice un sacco di cose brutte che non vere, io lo querelo. Va bene, dunque non la possiamo fare nemmeno chiamare dal direttore Giordano? Ma il direttore Giordano con me non ci deve parlare mai più. Gli ho mandato, se voi leggete, c'è un comunicato stanza, un'ansia che ho fatto oggi dove l'ho denunciato. Lo vedo in tribunale, parlerò con lui solo in tribunale. Ci vediamo in tribunale, arrivederci. Però aspetti, ufficio legale, pronto? Mia, che guerra! Scusa, che... cos'è il comunicato stanza? No, ma voleva dire stampa, chiedo, sì, voleva dire capito, stampa, dai. Ma è con noi Daniela Santanchè, buonasera, buonasera! Buonasera a lei! Come andiamo? Beh, l'ho vista ieri combattere dalla signora Costamagna, mamma mia! Vabbè, com'era elegante, tutta di viola vestita, molto bella. Io voglio capire una cosa, prima... No, come viola? Ma cosa ha preso Parenzo? Ma che viola? No, che viola? Io sono oggettivo, era simpatico. Vestita di viola, sì. Era no, molto Bordeaux, elegante. Bordeaux, viola no, Bordeaux, viola. Chiedo scusa. È un po' scaramantica, è scaramantica, signora Santa Cruz. E aveva orecchini Bordeaux in tinta con il vestito, era molto, molto elegante. Ma che proprio, sei un grande osservatore. Tu alla fine sei segretamente innamorato della signora Santanchè, questo è il punto. Sei, non credo. Alla fine secondo sei un me po'. Un po' li piace. Sì, un po' sì, secondo me un po' sì. Un po' li piace. Alla fine è una bella donna. Alla fine è innamorato. Alla fine è una bella donna e io assomiglio anche un po' a Sallusti in fondo. No, ma guarda. No, questo no. Guarda, ti assicuro, no. Ti assicuro, no. Perché siamo magri uguale. Ma che maghe, ma lui è più alto di te, leggermente più alto di no, te. No, non tanto. Più alto di te, poi ha questa faccia un po' da Nosferatu, no? Ha questa faccia sì, da le Nosferatu. Le occhiaie le ha come le ho io. Ma no, ha le occhiaie, c'è una santa che ha le occhiaie, vabbè, no? Però diciamo anche che, insomma, adesso bisogna essere carini, Parenzo è un bell'ometto. Vabbè, ma adesso siete veramente... adesso, ma lei basta poco, c'è una santa che le basta poco per cadere davanti a Parenzo. Guarda, è già tutta la giornata che combatte. Lo so, lo so. Però mi scusi un attimo, lei adesso ci ha fatto un po' perdere, sì. Perché... aveva detto: io tradirò Berlusconi, voterò a favore. No, no, quel termine non può essere. Beh, no, come no? L'abbiamo qua. Io no, tradirò. Ma tradirò una cosa del genere. Disobbedirò. Disobbedirò. No, ma pare che il linguaggio è una. Vabbè, disobbedirò in questo caso, non tradirò. Io oggi ho votato la fiducia a Berlusconi, non sul resto. Vabbè, ma io ho capito. Ma lei il giorno prima aveva detto un'altra cosa, però. Perché scusi, sono una pitonessa, ma non uno squalo. Basta il pane. A questo è interessante la cosa. Cioè, lei è una pitonessa, ma non uno squalo. Cioè, nel senso, certo. Se lei avesse fatto lo squalo, sarebbe andata contro Berlusconi. Cioè, non se la. Lei, diciamo la verità, è come un po' Razzi. Alla fine, contro Berlusconi, scusi, se non è un'offesa, credo, no? O no? Pronto? Ma Razzi, io non lo so, per la carità, non è nessuno offeso. No, però. Nel senso che siccome Razzi dice che Berlusconi è il capo e non si può mai contraddire il capo. Razzi, no, io lo posso contraddire su tutte le cose che sono politiche che abbiamo. Beh, questa che è più politica. Magari a volte. No, perché scusi, Berlusconi ha chiesto un voto su se stesso. Su se stesso. Oggi non è una giornata come le altre. Oggi siamo in attesa della sentenza della. Vabbè, ma questo che c'entra qua la riforma del Senato? Vabbè, però appunto, sì, ma c'entra perché in una giornata come questa. Cioè, non si può votare contro l'indicazione di io Berlusconi. Io non sarò mai all'opposizione di Berlusconi. Questo non lo so. Ma allora perché mai. Il giorno prima ha detto che disubbidirà Berlusconi e votava la riforma del Renzi? Perché non sapevo che Berlusconi chiedeva una fiducia su di vabbè, te. Vabbè, ma la gente non ne capisce queste cose. Lei è una molto attenta al popolo. La gente capisce chi sono i traditori. Vabbè, ho capito. Dunque, questi qua che hanno votato sono traditori, allora? Quelli quali? Signor Verdini, questi qua. Abbiamo votato tutti uguali. Ma no, hanno fatto il comunicato. Vabbè, non si capisce niente queste cose. Noi abbiamo votato il gruppo e ha votato compatto. E credo che oggi, in una giornata come questa... Ma no, ma ci sono stati dei dissidi inutili, per chi ascolta sono distingui inutili. Avete votato fine. Avete votato contro, punto. Vabbè, ma lei poi scusate, esatto. Ma era a favore di questa riforma della cancellazione del Senato, era favorevolissima. Ha votato contro, ma non le pare una contraddizione clamorosa? Cioè, in nome di Berlusconi ha rinnegato le proprie idee. No, io non ho rinnegato. Eh sì, perché è a favore della riforma del Senato. Ho riconosciuto, lei. Voglio dire, che c'è una maggioranza che si è espressa in un certo modo. Io posso fare dei distinguo, sono una di quelle 18 firme del documento che abbiamo mandato. Vabbè, ma distinguo che non c'è democrazia interna, ma le pare possibile la democrazia interna? Avete scritto che bisogna avere rispetto per chi è leader. Cioè, allora uno dice, può dissentire, ma le ripeto, io non mi sarò mai all'opposizione di Berlusconi. Mai all'opposizione di Berlusconi. Per cui se Berlusconi dice buttiamoci nel fosso, lei dice si butta nel fosso pure lei. Scusi, ma santa che lei è a favore della riforma? Buttarmi nel fosso? No, però siccome io sono stata eletta con Berlusconi e i voti li ha presi Berlusconi, non andrà mai contro quello che dice Berlusconi. No, andrò molto contro. Beh, se però Berlusconi perché dice votate per me, dico, lei dice. No, ma scusi, non è che Berlusconi chiede su tutti i provvedimenti un voto di fiducia a se stesso. Vabbè. Ha chiesto questa cosa, è una giornata in particolare. Sono contenta di aver fatto questo voto. Sono contenta di aver. Però lei la pensa diversamente. Documento. Lei è d'accordo con l'eliminazione del Senato. Ma tanto guardi, quando arriverà il Senato questa riforma, vedrà che, voglio dire, saremo maggioranza. Vabbè, però diciamo anche che insomma adesso bisogna essere carini, Parenzo è un bell'ometto. No, ragazzi, ma veramente io non ci posso credere. Cioè, Daniela Santacchè che dice a Parenzo che è un bell'ometto. Cioè, è bastato un piccolo complimento. Complimento di Parenzo. Ho sempre detto che è molto elegante la signora Santacchè. Ma no, ma è bastato un piccolo complimento per farla. Per ciò. Ma è meno ma cattiva. Santacchè è oggettiva. È meno cattiva di quello che uno può immaginare, la Santacchè. No, che aveva detto la signora Pascale, la Crudelia De Mon, cioè, ma quale Crudelia De Mon? Si scioglie come uno zuccherino. Basta saperla un po' prendere, ma prendere nel senso. Nella trasmissione che ho visto ieri sera. Vabbè, comunque abbiamo con noi, come avete capito, Daniela Santanchè di Forza Italia. Io ho una Forza cosa Italia, quel che resta di Forza Italia. Sì, quel che, ma mi dica la verità, lei dopo questa legislatura, quando finirà con la politica, ha chiuso, diciamo, è l'ultima volta che entra in Parlamento. Lo vogliamo dire, signora Santanchè, o no? Io so che è così, ma ammettiamolo, diciamolo chiaramente, diamo questo annuncio. Ma io sono contenta che lei abbia delle certezze. Io non ho nessuna certezza, a me l'impegno politico piace come passione, non come lavoro. credo che sia, se fatto nella maniera giusta, è una minaccia. Lei continuerà a fare politica per un sacco di anni ancora? No, io non ho nessuna decisione adesso. Penso di fare quello che sto facendo, poi vedremo. C'è anche Sallusti che mi dice che è meglio che insomma dedichi più tempo a lui. Ma infatti, questo ho saputo là, le ha fatto una domanda perché non dedichi più tempo, ma pure lui fa il direttore, non è che fa, cioè, anche lui dovrebbe dedicare più tempo a lei, o no? Capisce che io ho due, anzi come tutte le donne, tre lavori, faccio l'imprenditore. Cioè mi sta dicendo che lui reclama, lui reclama più tempo. Reclama più tempo, sono gli uomini, no? Come volete voi? Beh, ma anche le donne. Se volete lì a disposizione che vi tirino le camicie, che vi preparino da mangiare, che si occupano delle vostre cose. E anche lui è così. Anche lui sarà un tata, immagino, a casa. Cioè, si sta dicendo, questo è il vostro sogno. Ma lei mi sta dicendo che lei cucina tutte le sere, scusi, avrà una donna, lei domestica. Io sono una che, per dire, sono andata questo weekend a trovare mio figlio che studia all'estero e come sono arrivata mi sono messa, gli ho fatto tre torte, gli ho cucinato le lasagne, ho cucinato lasagne per un giorno per lasciare tutte le cose nel congelatore fatto. Ma lei stira una mamma e una compagna. Normale. Ma lei stira anche i calzini al signor Sallusti ogni tanto? Non si stirano i calzini. I calzini no, però le camicie sì. Le camicie sì. Io adoro gli uomini col collo della camicia e i polsini della camicia. Cioè lei personalmente si mette a stirare? Io non ci credo che lei personalmente si metta a stirare. Vabbè, venga a casa mia. Avrà 4-5 persone. Io mi occupo del guardaroba di Sallusti, di mio figlio. Ma sceglie anche i vestiti? Non è vestito benissimo. No, quello no, non me lo permetterei. Infatti non è vestito benissimo. No, perché? Beh, è sempre un po' così, diciamo. No, anzi. Beh, è più elegante, no, signor Fè. Questo non è giusto. È sempre un po' così, diciamo. Ma sai, io lo vedo come il più bello, il migliore. Beh, sì, certo. Ma lei, lo sposerebbe? No, io non mi sposerei perché trovo che nella vita ci si sposa una volta. Io mi sono sposata a 20 anni e non credo che si sposerà più. Che si sposerà più. No, questo non credo. Non, ma questo non credo. Magari potrebbe sempre convincere. Però non lei affitterebbe mai casa a una coppia islamica? Ma che c'entra? Glielo spiego. Oh, no. Mamma mia. Ecco, no, lo sapevo. Perché no? Perché è scoppiato un caso clamoroso. No, se sono di cui... regolari, voglio dire, che lavorano, rispettano le nostre leggi, pagano le tasse. No. Ma se vengono due islamici, di cui una velata, una ragazza velata, no? Di mettiamo 20 anni. Clandestina? No, regolare, però velata. Ah, regolare. Però velata. E le quanti anni? Velata quanti anni? 22 anni, 23. Ma perché sei fissato? Cosa. Perché non hai visto cosa è successo a Bologna di questa coppia di ragazzi islamici che sono, gli hanno rifiutato. Beh, ma ognuno può affittare la casa a chi vuole. Io preferirei affittarla agli italiani, perché io vorrei prima l'Italia agli italiani. Quindi se è una mia scelta, ma ognuno può affittare la casa a chi vuole. Siete musulmani, niente casa, affitto negato alla giovane coppia. Ma scusa, ma non ho capito, ma uno può affittare la casa a chi vuole o no? Ma uno può affittare la casa a chi vuole o no? Oppure siamo anche nell'imposizione politicamente corretto, io devo affittare per forza la casa a qualcuno, è incredibile, io casa mia la voglio affittare a chi voglio. Ilias e Rasmea sono cittadini italiani. Ma benissimo, io voglio affittare la casa a chi mi pare. Se uno non si trovano una casa in affitto, ma scusa ma io non sono proprietario di case, amore. Se viene qualcuno a casa mia con il velo e a me mi stanno sulle palle quelli che hanno il velo, la casa mia non gliela affitto. Ma non mica sarò razzista per questo, mica devo essere portato in tribunale dal tribunale politicamente corretto di Parenzo e di Repubblica, non so di chi. Ma non è il Corriere, bravo Cruciani. Dai, che leggete... sono tutti politicamente corretti. Allora, un ragazzo e una ragazza si innamorano. Sono italiani, hanno 30 anni. Le coppie cercano le case, guardi. E uno non gliela affitta. Ma non è sarò padrone di affittare. Solo perché erano sono musulmani. Ma non me ne frega niente degli altri. A me degli altri non me ne frega. Ma gli affitti casa sua. Io gliela affitti casa sua. Ma possiamo io, Cruciani, decidere di affittare a chi vuole? Magari gliela affitto se mi piacciono. Se non mi piacciono non gliela affitto. Non è che è stata respinta la richiesta. E pazienza. E va bene, tanto alla fine troveranno. Ma lei sa cos'è la proprietà privata? Ma è incredibile, uno deve essere costretto a affittare la casa a chi dice Parenzo. Costretto, ma ti dà l'idea, ma no, chi dice Parenzo, ti dà l'idea. Ma insomma, vabbè, sarà, ma qualcuno avrà dei pregiudizi. Lo scrive giustamente anche il Corriere di Bologna: è impossibile trovare una casa in affitto. In sette ci hanno detto no, siete musulmani. Ma gliela dia al comune. comune, che il sindaco è un compagno, gliela dia lui, no? Vabbè, adesso ma se c'è gente come voi, come lei e come Cruciani, che alimentate questo terrore dell'Islam solo perché una signora di 30 anni italiana. Ma non è il terrore, io non ho detto che non glielo affitto, io ho detto che sono libero di affittare a chi mi pare, dunque anche di non affittare. Se mi si presenta di fronte una coppia che non mi piace, per mille motivi, perché c'hanno il naso storto, perché c'hanno il naso adunco, perché c'hanno il velo, perché c'hanno il piede fatto, io non glielo affitto, sono padrone o no a casa mia? Ma guarda che incredibile. Ci mancherebbe, cioè, non lo so, proprio comprata con tanta fatica, pagato le tasse. Sì, ma intanto al Qatar, come mi segnalano giustamente, al Qatar vendiamo le compagnie aeree. Vabbè, ma che c'entra? Ma a Milano facciamo comprare i grattacieli agli arabi. Quelli sono gli arabi che vi piacciono perché portano il dindolo, no? Portano il grano. Portano. Aveva avuto un sussulto, è crollato. Però torniamo un attimo sulla vicenda Sallusti, che mi interessa, ecco, molto, che perché è rivenuta fuori, no, la ma è vero, lei ha detto in un'altra trasmissione, non mi ricordo dove, se in televisione o la radio, che è gelosissima, e quello me lo confermano diverse persone. Ma possibile mai che una persona è gelosa e possessiva? Brava, sì. È bello questo. Sì, possessiva, gelosa, bello. Rompiballe. Ma controlla pure il telefonino? No, se mio è mio, non deve essere degli Ma controlla pure il telefonino? No, questo no. Ma controllo ogni tanto, no. Qualche controllo sul telefonino ogni tanto si fa, No, di queste cose no. Però qualche controllo il modo, controllo le attenzioni. I vestiti, cioè, no, i vestiti, gli odori, no, i vestiti. No, mica un cane. Queste no, basta che lo guardi e si accorge se ha combinato qualche marachella. Qualche marachella. Devi sentire la pressione, la presenza, che io ci sono e sono incombente. Bello questo, giusto. Ma questo uno può anche rompersi le balle, però dopo questo un po' questa presenza, se si rompe le palle mi lascerà. Però c'è di più bello, cioè bisogna essere ossessivi, ossessivi, bisogna esserci sempre. E l'amore è impegno, l'amore è dedizione, l'amore è dedizione soprattutto. A me piace dedicarmi all'uomo che amo, sapere che ci sono. Ma una cosa di non mi piacerebbe tradirlo, come non mi piacerebbe, perché io voglio poter guardare il mio uomo negli occhi senza mai abbassare lo sguardo. A proposito di uomini eccetera, mi raccontano le cronache che la nuova coppia della politica italiana formata dal signor Salvini e dalla signora Isoardi, sembra, anche se lei, anche se lui smentisce, lui non ha confermato, lei ha detto apertamente che è fidanzata, lei possiede ancora un orologio del suo ex marito, tra l'altro, credo, dal signor, non so se marito o compagno, ormai mi confondo. No, non sono mai stata sposata, il padre è il signor Canio Mazzaro. Ma è vera sta storia o no? No, io non parlo delle cose degli altri, cioè no, non mi interessa. Sarà un problema della signora Isoardi, non mio. Ma è vero che lei ancora c'ha sto... Non è un mio problema. Non è un suo problema. Non è un mio problema. Cioè, la roba non è sua, dice lei. No, non è un mio problema. Non è il suo problema. Senta, Parenzo, vogliamo chiedere una cosa su... ancora ci sono voci che girano sul fatto che lei potrebbe andare con la Lega. Diciamolo una volta per tutte. Non andrò mai con la Lega Nord. Ma scusi, se io oggi... Voleva votare a favore della riforma, no, certo. È difficile, cioè, che vada con... Mi dispiace che Renzi voleva scrivere le regole con noi e poi ha voluto scegliersi l'arbitro da solo, ma c'è una vocazione riformista, questo paese bisogna cambiare. Cioè lei è d'accordo questo con la riforma? Questo paese che va riformato. Vabbè, dunque lei non è... No, guardi, non è la mia riforma, comunque questa riforma, il signor Renzi lo deve sapere, è targata anche Forza Italia. È bello perché non avete votato. I voti al Senato... Questa riforma oggi non parleremo di ciò perché non sarebbe arrivata alla Camera. Vabbè, lei vogliamo dire che lei non andrà mai con la Lega? Ma io non, anzi, io voglio che Forza Italia. Dunque non andrà mai con la Lega, orgoglio, dunque sono un orgoglio di appartenenza. Vabbè, quello va bene, però lei non andrà mai con la Lega. Ma io non andrò mai con la Lega, io sto dove sono. Senta un attimo, ma sono ferma come un paracarro. Presenti i paracarri? Ecco, lei mi immagini un bel paracarro. Senta, la frase di Buonanno, i Rom fece dalla società, la condivide? No, che però voglio dire, gli Rom o gli zingari, anche se adesso zingari, non si sì, può Rom. Più dire. No, diciamolo anche, gli zingari, mica. Perché sa, adesso c'è anche questo linguaggio che no, deve essere no, corretto. Quello no, cioè, no. Terroristi islamici non si può dire, bisogna dire jihadisti. Zingari bisogna dire Rom. Ma... sono zingari. Sono e io degli zingari ho paura. Quando mi si avvicina una zingara penso che mi porti via il portafoglio. O che mi rubi qualcosa. Per cui sono ladri nell'animo, dice lei, cioè hanno una tradizione. Ma sa, sa, non è che saranno tutti così, però zingari che rubano ce ne sono tantissimi. Anche politici, zingari che lavorano, anche politici che rubano. Zingari che lavorano? Vabbè, ma non è che questo. Zingari che lavorano pochi, dice lei. Io non ne conosco zingari che lavorano. Io sono stata nei campi rom e ci ho visto dentro di tutto quello che rubano nelle nostre case: oro, gioielli, incenso, rame, automobili. Io nei campi rom ci sono stata e ho visto tutto quello che rubano agli italiani. Ma scusi, poi, secondo lei il furto ce l'hanno dove? Nella tradizione? È una specialità della casa? Ma che lei lo vede che i bambini, sì, se andavi a casa di Belsito trovavi i diamanti, che sono piccoli, comunque, che hanno 7, 8, 9 anni, 6 anni, li mettono sulle strade. E dunque è una tradizione il furto. Il furto è una tradizione, diciamo. Ce l'hanno nel DNA, nel DNA. Sì, nel DNA, certo, nel DNA, la genetista. La genetista. Per bene, ma io li voglio conoscere, io non li conosco. Se va a casa di Belsito trova i diamanti rubati, guarda. Ma che c'entra adesso i furti della Lega Belsito? A Roma hanno rubato di più i politici dei rom sul caso mafia capitale, amica mia, su. Manco se tu metti insieme 10 anni di attività a Rom, non avranno mai rubato. Era partito bene, Parenzo. Niente, non ce la fa. Era partito bene. Ce la fa perché con lei Cruciani, ha capito? Siccome dice lei delle cose intelligenti. Ma no, ma è che era partito bene. Santa che è una brava persona. La santa che da brava politica è. si eccita con le parole negri, rom, ma vero, no. Su quella roba lì si eccita, scatta, no, si come eccita, il toro si quando vede Sallusti, non è che si eccita, ma no, per... Rom, appena aspetta che la notizia, devo dire Rom, che fa più un certo effetto, alla più voce sangue, Rom, fa più sangue, fa alla più voce sangue. Rom, il politico di centrodestra si eccita improvvisamente, ma si eccita, no, ma sono gli italiani, si eccita, no, no, te lo dico io, Rom, campinoma, di nemico, Rom. C'è un'altra cosa che voglio chiedere, io sono sicuro di questa, di un'altra cosa. Lei ha armi a casa? No, io no. Armi? Sparerebbe a qualcuno se entra dentro casa sua? Ma sai che questo non credo di essere capace, perché non è nel mio carattere, però bisognerebbe trovarsi. Di fronte a gente che spara cazzate. Bisognerebbe trovarsi. Però, se vabbè, io non ho una pistola, mi dovrei trovare in una certa situazione, e se, non so, dico, prendessero mio figlio, sì, forse sparerei. Vabbè, d'accordo, però cioè, non ha mai pensato di armarsi a casa? No, niente. Senta, invece un'altra cosa, la Boldrini che vuole per forza, io divento pazzo per questa cosa, io spero che nonostante il suo femminismo di fondo, femminismo diciamo di destra, non femminismo di sinistra, mi venga incontro su questa roba qua, la Boldrini che vuole cambiare i nomi e li vuole declinare al femminile, divento pazzo, ministro, presidente, io divento... Io vorrei minestrina, a me piace da bestia la minestrina. Come la minestrina? Però non c'è un corrispettivo maschile là, cioè mi dica che una... Ma dai, ma il linguaggio è una convenzione, abbiamo sempre detto ministro, assessore, che facciamo adesso? Ma dai, ma queste robe qua sono ridicole, ma abbiamo altri problemi, no? E mica come ma vi ha inviato tu pure una lettera per dire che bisogna cambiare il linguaggio ma di genere? Ma io non l'ho neanche vista, mi occupo di cose serie, ma cos'è? Per cui roba? Dica alla Boldrini che io la chiamerò sempre presidente, non la presidente, il presidente Boldrini, io lo dica chiaramente. Il presidente Boldrini? Il sì, presidente Boldrini. Il presidente Boldrini. Vedrà che prima o poi ci sarà pure una multa, ci sarà pure una multa. E beh, come hanno fatto, no? Cioè, cos'è l'Europa che dice non si può abbandito terrorismo islamico, bisogna sostituirlo con i jihadisti, ha bandito la parola zingara che bisogna dire rom. Senta, ma ha fatto bene l'Unione, la comunità europea, che fa solo cazzate, sarà anche questa roba qua, sì, che dirà, bisognerà che chiamare, ecco, il presidente, il ministro, bisogna dire la ministra, altrimenti multa di 500 euro come per le prostitute, esatto. Senta, io voglio... di questo vedrà che se ne occuperà presto, ma anche non si preoccupa, ma signor Briatore, il Briatore non si è troppo incazzato sulla cosa di Crozza, vuole querelare pure Crozza sulla vicenda dell'evasione, della presunta evasione, i conti, Svizzera, tutte queste robe qua. Pure Crozza, ma Crozza fa il comico. Glielo dica. Ma glielo ho già detto. Gliel'ha già detto, Briatore. Lasci perdere. La differenza è che quando mi imitano, mandi fiori, ringrazio. Poi glielo dico. Briatore sbaglia dunque se querela Crozza. Ma secondo me sbaglia, anche perché Crozza è uno bravo, un professionista. Appunto, dai. Vabbè, grazie, a presto. Grazie, arrivederci, mi saluta ciao. Per cortesia quelli intelligenti. fortissimo, bellissimo, fantasticissimo di Parenzo. Eccomi qua. Cosa farà da mangiare stasera a Sallusti? Cosa no, è a Roma, stasera? È a Roma. Non cucino. È a Roma. E cosa gli ha lasciato in freezer? A Mosca e io sarò. A Mosca? Che va da Putin? Quindi, a Mosca? Che sta a fare a Mosca? A Mosca. Sallusti a Mosca. Che è da fare a Mosca? Da Putin? Anche lui. Ma attento che a Mosca ci sono le dace, eh? Sembra il titolo di Topolino sulla Luna. Madonna, ma stasera chiamerò 10 volte in quell'albergo. Ma ci sono le dace, mamma mia lì, che battaglia delle dace, con le biondone russe, amica mia, che battaglia. Mamma mia. Saluti. Staccato il telefono. È pieno. Ma quante telefonate fa al giorno? Quante telefonate fa al giorno per controllarlo? 10. No, ma questo no. Dai, mi dica, 10 telefonate, 10 telefonate. No, 10. Ci sentiamo per il piacere di sentirci. No, 10 telefonate le fa, bisogna controllare. Sentiamo che stasera sarà staccato. Non prende. A lei piacerebbe però, Cruciani, avere una donna che si occupa no, di no, guardi, le assicuro di no. Le assicuro di no, dopo 3 mesi sarei sfinito. Sarei francamente sfinito. Le posso assicurare, ma lei no, fatto no. Così, sì, sì, sarei sfinito totalmente. Come no? Sfinito totalmente. Ma a voi piace questo? Ma non mi piace a me, a lui no. Non mi piace, se c'è qualcuno che si prende troppo cura di me divento pazzo. Pensi che io sono una che sta fuori sempre, lavoro dalla mattina. Ma poi io sono un traditore, però. Io sono un traditore seriale, non è possibile. Traditore no, non mi piace. Seriale. Io sono per la fedeltà assoluta. Lo so, è lo così so. Bello. Ma oggi è uscita. L'esercizio che lei dovrebbe no, fare. La fedeltà è una cosa è pessima. È una grande soddisfazione. Per fare carriera è meglio per fare carriera meglio accettare di fare sesso con i piani alti, l'ha detto una chirurga vascolare australiana. Attenzione. Guarda, io piuttosto vado a pulire le scale dei condomini perché voglio andare piuttosto, piuttosto che darla in piuttosto che darla per la carriera, va a pulire i condomini, va a pulire le scale, non va volantinata in giro, no, dice la Santa Anchieta. No, quello no, perché cioè non va data, non va data facilmente, devi dire, per una donna non c'è più niente di più bello che alla sera andare a dormire con l'uomo che ti piace. Perché guardi che dormire con l'uomo sì, ma guardi che dopo un po' dopo un po' di anni il sesso con la persona così, che conosci non ne puoi più, questa è non puoi ma più. Questo parli per lei. Non ne puoi più. Questa è puoi... Su questo sono d'accordo con la Santa Anche. Accendiamo la discussione. Rom. Parli per lei. Lo so, vabbè, perché vabbè, d'altra parte lei è una Santa Anche, non la conosco. Lei sta dicendo che dopo tanti anni ancora da quel punto di vista con Sallusti. Ma scusa, ci hanno chiuso dentro qua. Ma il signor ancora da quel punto di vista. Mi hanno chiuso dentro la camera. Vabbè, arrivederci. No, ci hanno chiuso dentro, grazie. Come vi hanno chiuso dentro? Aspetta. Fermo, come vi hanno chiuso dentro? Ma come? Come ci hanno chiuso? Ma scusate, ma lei non mi sta dicendo che dopo tanti anni lei mi sta dicendo che dopo tanti anni ancora fa sesso con il signor Sallusti? No, scusi, se le dico. No, scusi, adesso io sono qua chiusa nel parlamento. Devo cercare la via per uscire. Cioè, ancora c'è tensione sessuale? Ancora c'è passione sessuale o ma no? Io non vorrei nessun altro. No, ma ancora c'è questa passione, perché questo qua sarebbe una cosa, è curioso, cioè ancora una c'è passione assoluta, passione totale. Forte, sessuale, forse di attrazione fisica. Ma certo, ma assolutamente. Ma è un miracolo. Ma questo è il segreto. È un miracolo. Ma se no, scusi. Cioè ancora finisce siete tutto così. Cioè riuscite a fare ancora più di una volta a settimana? Cioè questo è un miracolo. Sarebbe un miracolo tremendo. Cioè, per me sarebbe certamente. Più di una volta a settimana. Ma cosa c'è adesso, lasci stare più o meno, ma sicuramente, ma questo è l'amore. Io sono allibito. Io sono allibito. Non ho mai conosciuto una Santa. Sono allibito. L'ho detto prima. Va bene, gliel'ho detto. Arrivederci. Giuseppe, Davide, vi voglio bene. Davide, Giuseppe, vi voglio bene. Abbiamo anche traffico fra pochi istanti, andiamo però a sentire prima il signor Andrea da Milano. Andrea, vai Andrea, dimmi. Ciao Giuseppe. Vai. Senti, no, mi devo riprendere un attimo perché mi è toccato sentire 30 minuti della signora Santanchè che non vabbè. Non è proprio agevole, io mi sono divertito invece, ho capito. Tu no, vabbè, pazienza, ne no, neanche avanti. Un po', però fa niente. Sì, però hai sentito però. Ho ascoltato, sì, mi è toccato anche essere d'accordo con lei su. E lo vedi allora? La prima volta nella mia vita sulla storia del genere lì di quella cagata. Vabbè. Allora? No, ma ti chiamavo per quello che hai detto prima della Costituzione. No, ieri. Prima. Pure quando oggi, hai detto che è un aggravante scrivere. Dai, non si può. Ma sì, ovviamente è una provocazione. No. Cioè, nel senso che non è che la Costituzione italiana fa schifo in assoluto. Secondo me è stata costruita in modo poi. Molto bella, specie da, la prima parte. Molto bella. Vabbè, è stata costruita in modo da bloccare in parte il paese. Cioè, è stato uno dei. Ma sì, anche. Ho detto la prima parte. carta. Ma renditi conto da dove si veniva. Distinguere adesso. Cioè, beh, no, va distinta. Non è, infatti, non è che nel 48 potevi pensare a una costituzione dove ci fosse un uomo solo al comando. Ma non è questione di uomo. Adesso non ci mettiamo qui a discutere questa roba qua. A mio parere, il fatto che, come dice Parenzo, i comunisti hanno partecipato alla regione è un aggravante. Non è un aggravante, è la storia d'Italia. Vabbè, ma ho capito. Hanno fatto la resistenza, hanno liberato il paese dai nazi. Mi può fare schifo in parte. Ma ti fa schifo perché sei stupido, però. Ma come si fa? Ma uno può dire. Non mi può fare schifo la Costituzione. Chi è che ha liberato questo paese dal fascismo? Non mi può fare schifo la Costituzione. Va bene, d'accordo. Siamo arrivati alla dittatura in cui non mi può fare schifo una parte di questa Costituzione. Cosa vuol dire mi fa schifo la Costituzione? Una parte di questa Costituzione, secondo me, mi va. Uno può dire che la seconda parte è inattuale, infatti la stanno cambiando. La parte io dico riforme. Una parte di questa Costituzione mi fa schifo. Allora, allo 02 46 52 40 10, vi ripeto, 02 46 52 40 10, segreteria telefonica, arrivano questi messaggi. Il problema dei Rom si può risolvere riaccendendo il falò alla Riviera di San Sabba a Trieste. Polverizzati tutti i Rom, ci si polverizza anche Parenzo. Ehi Cruciani, fascistello, ascolta, senti, non ti si può più ascoltare, tu sei bravo quando parli di varietà, di cabaret, sei molto bravo, di figa, di cose del genere, però basta con la politica, perché sei proprio il tipico fascistello, porchesuccio. Caro Cruciani, io ti volevo dire che sono razzista, nel senso che sono un fan di Razzi, perché lui ci fa ridere, ridere, ridere. Buon anno, ha espresso quello che pensano la maggior parte degli italiani. I Rom rappresentano la parte malata e come tutte le malattie vanno curate alla radice. Mi spiace solo una cosa, che non vadano a visitare le case di tutti i benpensanti di sinistra. Poi ne riparliamo. Parenzo, sei un maschio vero. Buon anno, ha certamente ragione. Voi siete amici dei delinquenti, noi difendiamo la nostra gente. Viva la Lega, viva buon anno. E allora? Cioè non ho capito tutta questa ma che barboni, ma che straccioni. Sono Sammy Varin di Radio Padania, ma neanche un messaggino, lasciate un messaggin, fate la cacca sullo zerbin, cioè niente, così come niente fosse. Ma per favore, ma per piacere. Cioè Varin ha perso tempo, Varin di Radio Padania ha perso tempo per lasciare un messaggio alla segreteria telefonica. Parenzo, hai capito com'è ridotto? Sì, poveretto, è così. Dai. Ma io prenderei il numero di quello che ha parlato dei forni invece, quello lì. Prendiamo tutti i numeri, facciamo tutte cause in tribunale. Quello è un nazista. Cause in tribunale. Per me uno non può lasciare in un messaggio in una segreteria telefonica di mettere riaprire i forni. Ma per me non può. Ma ho capito, però, ma non può, che vuol se dire? Si può tollerare, vuol dire non può. Che se lo dice, c'è se il lo numero dice, di telefono. Se la polizia vuole, certo, gli do il numero. Mi auguro che, ma lo chiederò a parte che il numero non c'è, perché non appare il numero. Forse sì, di non lo so. Intervenire, di capire ma chi è, di denunciarlo. Ma lascia perdere, ma che te ne fotte. Assolutamente sì. No, Daniele, uno non ma è tu un vuoi eliminare tutti gli estremisti? No, no, qua. Vuoi eliminare tutti? Io voglio che una società tutta uguale. Una volta la fogna, ma che tutto uguale? Daniele, la fogna da uno Milano, la teneva in casa. Daniele da Milano, non è che ripeto che in America c'è il Ku Klux Klan. Veniva arrestato uno. Daniele Milano, vai. Se vai in giro a dire una roba così, viene arrestato. Daniele Milano, vai. Daniele. È un nazista. Va bene, Daniele. No, non va bene purtroppo, però. Dimmi. Pronto? Pronto? E parla però, amico. Pronto? Mio, dai. Pronto? Senti, Daniele, non fare lo spiritoso, che qui non è che viene a rubare a casa dei ladri, dai, forza. No, no, che cazzo è? Non sentivo la risposta. Intanto Parenzo è un coglione, io non capisco com'è che tu fai ad averlo. Mi saluti a casa sua a tutti. Vabbè, vai avanti, hai già detto, è un coglione, dai, forza. Vabbè, poi allora, questa società di tutti uguali, ma io dico, vabbè, ma estremismi. Ma non è che gli ubriachi devono chiamare tutti. Ma stai tranquillo, fai parlare Daniele. Un ubriaco dice, vabbè. No, ubriaco. Ma io non ho mai detto tutti uguali, ma lei si deve fare un controllo alle orecchie. Ma che controllo? Perché tu vuoi che tutta la gente la pensi come te. Ma chi l'ha detto? La gente invece... I Rom gli stanno sul cazzo, che io domenica ero a Roma e ho visto uno scippo proprio fuori dal ristorante di uno zingarello, perché quelli ce l'hanno come cultura. Chiama la polizia, no? Ma è un dato oggettivo, la polizia non c'era. Non c'era. è un dato oggettivo, parente. Sai cosa vuol dire la parola oggettivo? Chiama la polizia, i ladri esistono, certo che esistono i ladri. Chi ha negato mai che esistono? Seconda anche roba, tra i rom esistono dei ladri. Vabbè, poi? E poi l'altra roba che io volevo dire, che prima io ho acceso la radio e c'era Leone di Lernia, parlavate degli omosessuali. Anche lì, quel discorso lì, secondo me c'è un relativismo sulla sessualità che... Cioè, perché tu odi i frogi? No, no, no, io non sono omofobo, attenzione. No, però? Attenzione. Però? Assolutamente, assolutamente. Però il discorso è che c'è una deviazione mentale rispetto alla sessualità, bisogna riconoscerla. Ma che ne sai che è una deviazione mentale? Se uno non può avere piacere a prenderlo dietro, scusa, no? Allora, o a darlo dietro, o a metterlo dietro? Giuseppe, posso farti una domanda? Ma se tu vedessi due froci o due persone, due omosessuali, non usiamo termini, che si culano, a te è una scena bella? Ma che vuol dire? Ma no, dire ballare questo qua mi fa vomitare. No, però scusami un attimo, no. La bellezza delle cose. Perché, aspetta, però questo discorso va approfondito. Questo discorso va della scena che si parla davanti, che si può presentare davanti, va approfondito. Prima abbiamo la borsa, perché siamo sempre alla radio del Sole 24 ore. Poi approfondiamo la realtà della vita quotidiana, quello che pensa la gente. È una cosa indegna la sua trasmissione. Allora, eravamo con Daniele Milano, no? Se non sbaglio, Daniele. Sì, allora, non ho capito che stavi dicendo. Cioè, se tu vedi la scena di due uomini che stanno insieme, tu hai detto che si incurano, vabbè, quello che è. Cioè, è una brutta scena, secondo te? Allora, sì, non diciamo che non è che trasmette bellezza, questo voglio dire io. Cioè, il concetto, secondo te, l'omosessualità è una perversione, una malattia? È una perversione, esattamente. Parenzo, rispondi tu, io non ce la faccio più a rispondere a queste persone qua. No, vabbè, ma scusa, perché... Una perché volgarità inaudita come questa. Ma che volgarità? No, ma scusami, ma perché secondo voi... Ma perché esiste? No, però è vero che la scena... Tema, allora, diciamo la verità. Allora, diciamo una verità, bisogna dirla. Perché dice cose così Vedere una scena... Aspetta, vedere una scena, per esempio a vedere la scena di una di omosessualità maschile... Non guardatela, diciamo che non la guardo perché non mi piace. Ma no... A Parenzo probabilmente... Una scena invece di omosessualità... No, ma non mi interessa. Una scena di... Che tema è? Che roba è? Che dice questo qui? Una scena di omosessualità femminile mi fa meno impressione, anzi forse mi piace. Cioè, questo bisogna dirlo, la domanda, un'altra domanda. Invece, dimmi, caro, dimmi. Un uomo e una donna che fanno l'amore, cioè, trasmette quello stesso senso di ribrezzo che ti trasmette invece di un uomo. A me il ribrezzo non ce l'ho, tu ce l'hai il ribrezzo, io non ce l'ho. Nei confronti di due persone, cioè, a te rimani indifferente, Cruciani, rispetto a questa scena, cioè rimarresti lì a guardarla. E questa è la domanda che ti faccio. Ma no, ma non me la lascia perdere. Ma no. Il punto è che tu dici che è una perversione, che tu dici è una degenerazione, che tu dici è una cosa da malati, è una cosa orrenda, è una depravazione, una cosa quasi da punire, quasi da intervenire coi medici. Tu dici questo? No, assolutamente, perché poi il discorso è che ognuno a casa sua fa quello che vuole, però farlo passare. Vabbè, è caduta la linea, avevamo già capito quello che voleva dire questo signore. Io tenterei di chiamare quel sindaco di Agropoli, caro Parenzo, del Partito Democratico, il quale sindaco di Agropoli vuole fare un trucco, cioè si vuole praticamente si è fatto multare, dunque entra in contrasto con il comune, decade e dunque si può candidare alle regionali. Cioè, ne pensano una più delle altre, sono micidiali. Sentiamo, vediamo se lo becchiamo, vai. Dai, forza, rispondi. Pronto? Caro Alfieri, buonasera, come sta? Sono Cruciani, Radio 24. Tutto bene. Senta, volevamo chiedere, c'è anche il professor Parenzo qui accanto a noi. Come sta, amico mio? Tutto bene. Senta, ma cos'è questa storia che lei si fa multare per decadere e poi candidarsi alla regione? Ma il discorso, il problema ce lo dovevamo porre quando la regione Campania... Sì? Ha approvato una legge che impone le dimissioni al sindaco che si vuole candidare. Ma scusi. E quindi la candidatura del sindaco poi fa arrivare il commissario prefettizio per oltre un anno al comune. D'accordo, però scusi, c'è una legge che prevede che chi è a sindaco di un comune sopra i 5.000 abitanti non si può candidare, punto e basta. Vabbè, c'è anche una legge che se il sindaco viene dichiarato incompatibile non arriva il commissario, la giunta e il consiglio restano in casa. Vabbè, è una furbata. È un escamotage per evitare il commissariamento all'ente, certo. no, evitare il commissariamento, ma in realtà che succede? Che resta, chiamiamolo furbata, dai. Resta e dice sindaco. Furbata, la possiamo chiamare anche furbata. Possiamo? No, giusto per capire, potrei anche chiamarla paraculata, però la voglio, non voglio chiamare. No, però... no, ma non voglio chiamarla paraculata, però è una furbata, possiamo dirlo? Sì. Però sindaco, scusi un attimo, non, sì, sembra un po' una presa in giro. Scusi, c'è una legge che prevede che lei non si può candidare, perché si vuole candidare per forza? C'è una spinta della popolazione, spinta, di sì, mandare il proprio sindaco in regione per risolvere. Scusi, però lei lo sapeva quando è stato eletto per la seconda volta sindaco. Ma lo... la legge è stata fatta 3 mesi fa dalla regione, mica era una legge, è stata fatta ad hoc. Però, scusi un attimo, ma le pare normale che lei si sia fatto multare? No, perché mi hanno multato, non è che mi sono No, lei si è fatto multare, su, lo dica chiaramente. Si è fatto decadere. Ma l'ha detto anche lei? L'ha detto anche lei? Sì, ho colto l'occasione, mi hanno multato, hanno fatto bene. Ma non è che l'hanno multata per caso, però. L'hanno multata, lei si è fatto... ride. Ma lo dice lei. No, ma scusi, lei si è fatto multare, adesso lei non lo vuole ammettere, ma praticamente l'ha ammesso. Si è fatto multare e adesso, facendo opposizione al comune, no, giusto? Sì. Sì. Praticamente decade, perché lei non può andare, certo, contro il comune, contro se stesso, no? È certo. Beh, certo. È una cosa simpatica. Beh, sarà come... anche simpatica, ma io non voglio dire che è una paraculata. No, ma perché, perché lei non si è detto. Scusi, perché non si dimette se si vuole fare? Si dimette, via. Perché qual è? Arriva il commissario per un anno nella mia città. Ma che sarà il problema? Che sarà mai? Ma io posso evitarlo con una furbata, una paraculata, lo evito. Ma lei lo evita anche per mantenere in carica tutti i consiglieri attuali, che sono pure. Certo. Un po' sì. Mi dica la verità, io sono più furbo di Caldoro. Alla fine, quello voleva fregarmi? Io sono più furbo di lui. Ma no, vabbè. Caldoro ha fatto una legge e io l'ho fregato. Riuscito. E io l'ho fregato. Ma anche perché, se no, finito il mandato, che andava a fare lei? No, io sono avvocato di professione, torno a fare la mia professione. Beh, però, avendo finito il mandato di sindaco, non può più fare il sindaco, quindi meglio in regione. L'ho fatto 2 volte ad Agropoli, 4 volte nel Appunto. Mio paese di origine, sono stato 10 anni consigliere, però ho 49 anni, ho un'esperienza ancora da poter... Quindi meglio andare in regione, quindi meglio andare in regione a 10.000 euro al mese, insomma. Ma no, non è una questione di soldi, perché uno pensava ai soldi, non facevi il sindaco in tanto tempo. Vabbè, però anche quelli... Anche quelli, no, dai. Aiuta, dai. No, il mio reddito, per fortuna, il mio reddito è quello di avvocato ed è un bel reddito pure. Ma pure De Luca comunque fa la stessa cosa, si candida in realtà, no, e poi sarà sospeso probabilmente. Tutto invalidato. Ma non lo sappiamo. Ma è tutto degradato. Ma le pare normale a lei che uno si candida sapendo che già con la legge Severino è condannato in primo grado e non ma può... Ma perché lei pensa che è giusto che c'è un principio di presunzione di innocenza fino al terzo grado e poi c'è una legge dello Stato... Ho capito, ma l'avete approvata... A una persona che è condannata in primo grado per abuso di ufficio... Scusi, Alfieri, questo è un discorso un po' berlusconiano, lei è del Partito Democratico... Non significa niente, ci sono questioni di valore e di principio che prescindono i partiti. E poi la legge l'avete fatta voi del PD, l'avete approvata a furor di popolo. Una legge sbagliata. E adesso ve ne accorgete, solo quando è in campo De Luca? Vabbè, comunque. No, dai. No. Caro signor Alfieri, grazie. Mi stia grazie bene, a, mi stia bene, mi stia mi bene. Raccomando. Mi raccomando, la multa, come, ma la multa alla fine lei si oppone sul serio? Fin quando non mi dichiarano incompatibile, poi la pago. Beh, lei si oppone e poi un trucco continua. È una cosa pazzesca. Lei si oppone e poi la paga. Cioè, è più un trucco. È una presa in giro continua. Certo, li dobbiamo mettere certo? per i fondelli a questi consiglieri regionali che hanno fatto sta lì. Ah. Vabbè. Fino in punto. Viva l'Italia! Ma paraculo, amico mio! Viva l'Italia! Ottime cose. Ciao. Ottime cose, cavolo. Ragazzi, è veramente una presa per il culo colossale, ma colossale, cioè, questo si fa multare e per candidarsi alla regione, già l'idea che uno si debba fare multare per candidarsi alla regione è un abominio da qualsiasi punto di vista, non solo, dice apertamente che è una paraculata e dopo pagherà la multa, cioè tutto finto, tutto falso, dai, su, meno male che lo dice apertamente, questo da un certo punto di vista, no? Non rendersi bene. Chiamiamo di nuovo il presidente Ferrero, va, che magari si è incazzato con Mario Giordano come una bestia. Hai sentito prima, no? L'ha querelato, annuncio di querele, diffamazione, eccetera. Cioè, il presidente della Sandone Ferrero, perché l'ha introdotto nei pescecani. Proviamo a chiamare un attimo, vediamo un po' se becchiamo la linea con Ferrero. Vediamo un po' se risponde Ferrero. Presidente Ferrero? Chi è? Sono di nuovo Cruciani. Cioè, no, ma io ho detto, cosa? Ho fatto il comunicato stanza. Ma come stanza? Stampa, stampa. Stanza, ho querelato con Giordano un cevarlo. Vabbè, però io posso dire Cruciani. Una cosa. Sì, mi dica. Una cosa bella. Sì, mi dica. Nel cosa. Libro sì. Si dicono un sacco di cose brutte e inesatte. Vabbè, questo l'avevamo capito, eccetera. Vabbè, sono loro che comunque, m'hanno fregato. Ma l'hanno chi la frega? Chi, su che loro, cosa? Ma Giordano ha scritto che meno male ci stava l'azienda di mia moglie. Vabbè, ho capito, ma adesso Giordano ha scritto che lei è simpatica, eccetera, però ha fatto bancarotta, ha portato la Livingston alla dissoluzione, eccetera, eccetera. Ma è falso, e io ho fatto il comunicato stanza. Vabbè, ho capito, stampa. Ha querelato, vabbè, ma abbiamo capito. Cose false sull'azienda di mia moglie. E vabbè, ho capito, adesso l'azienda di sua moglie, chi se ne frega. Cioè. No, è falso, dice che vendeva pecorino pepato. Eh sì, ha detto che Terminillo è falso. Ma che vendeva, scusi? Non vendeva. No, vendeva solo pecorino romano, sì? Gran cacio etrusco, Gran cacio di Roma e ricotta romana. Un'altra cosa. Vabbè, Ferrero, però scusi un attimo, perché ce l'ha lei con lei? Avrebbe si sarebbe intascato pure 800.000 euro come gratifica dalla Livingston, là, la compagnia aerea. Così scrive il signor Giordano, Lui dice natantum, invece per me so pocum, era solo per l'impegno profuso. Vabbè, ho capito. Ma senta Cruciani, ma che vuole che siano 800.000 euro? Non ci compri manco il parastinco dedo. Sì, il parastinco dedo. Beh, ho capito, però poi insomma, la compagnia stava fallendo e lei si sarebbe intascato 800.000 euro. Come sono rotto i coglioni, querelo pure lei. No, non mi quereli, io ho tanti guai già. Le cose inesatte. Ma io c'ho tanti. Vabbè. Un comunicato stanza. A ridaglie con sto comunicato stanza. Parlerò con lei solo in tribunale. Ma no, pure con me, no. Ci vediamo in tribunale. Va bene, va bene, presidente. Arrivederci. Mamma mia. Ma che. Sto Ferrero, però, bisogna dire una cosa, cioè. O lo elogi oppure non lo puoi manco criticare che te vuole portare in tribunale. Cioè, è una cosa esagerata, dai, su, esagerata. Sì, non conosco i dettagli della questione. Certamente questa compagnia, la Livingston, quello che lui era, l'aveva comprata. Non ha fatto una bella fine. Poi dice lui, mi hanno voluto fregare. E che vuol dire l'hanno voluto fregare? Ci sono pure le sentenze delle carte del tribunale. Vabbè, dai, Matteo Pescara, veloce, vai Matteo. Poi Patrick, Luca, un sacco di gente. Matteo, vai. Eccomi, ci sono. Vai, dimmi, caro, dimmi. Cruciale, senti, c'hai 50 euro da prestare a Parenzo? Gli paghi una bella vista all'oculista. Perché? E dire che la Santa anche una bella donna. Dai, beh, non è brutta, questo lo dico pure io, scusami, abbi pazienza, dai. Matteo. Cioè, a parte che la Santa anche non ha nemmeno bisogno di armi a casa, perché i ladri vengono la mattina, basta che lascia la luce accesa, la vedono senza trucco, bam, e muoiono stecchiti là sul canerotto. Cioè, basta, una specie di spaventapasseri. Ma no, ma non è brutta. Brutta. Ma che stai a dire? Ma non si può dire che lei, secondo me, è un po' obbligato da quel che dice. Dice cose brutte. Come meglio Platinette, ma non è meglio Platinette, dai, su. Meglio Platinette. Ma si può dire che è meglio Platinette? È una bocca aperta. La Sant'Anchè è una bocca. No, ma tu hai dei pregiudizi, non puoi dire che è meglio Platinette. No, dai, su. Io è meglio. Tu scusa, dai, scusa un attimo, io voglio dire una cosa. Se ci fossero solamente due persone al mondo, no? Platinette e la Sant'Anchè, con chi vai tu? Mi faccio i rasponi, Cruciale. No, finesse, Matteo, scusa, no, ma al di là della cosa, no, Matteo, io vado con la Sant'Anchè tutto. Ma stiamo scherzando, tra la Sant'Anchè. Guarda che brutta forte la Sant'Anchè. Ma che stai a dire? Dai, che stai a me? Patrick, provincia di Lucca, Patrick, vai, Patrick. Sì. Dimmi. Non si sente niente, Valerio Foggia, vai. Valerio. Sì, sono io, senta. Dimmi. Cruciale, ma quando la finisci? Tutte le sere i rom. Se andiamo a vedere i politici che vivono con i soldi nostri. Ma noi parliamo pure di quelli, noi parliamo anche di quelli. Abbiamo parlato di Jerry White. Sì, ma, no, ma non tutte le sere. Valerio, ma che vuoi che ti dica? I rom sono un argomento di attualità, la gente poi, è incazzata. E poi un altro appunto vi volevo fare. Un altro appunto, si faccia. Tutti i giornalisti, secondo me, non sapete leggere. Non sappiamo leggere, no. Che abbiamo fatto? Sì, perché Perché vedete, la riforma della Costituzione, la nostra Costituzione non si può riformare. Vabbè, amico mio, hai bevuto si un po' troppo. Si può revisionare, se vai a leggere, revisione e riforma non è la stessa cosa. Vabbè, ma adesso ci devi fare due palle così no, su revisione e no, riforma. Ma io dico, ma Valerio, ma voglio andare a casa, voglio andare a mangiare, ciao, ci ho messo rotto, ciao, ci vediamo domani, 18:30, non mi puoi fare la testa così alle 20:50 su riforma, revisione, ma che è? Ciao. Ciao, vi bacio a tutte e due, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E comportatevi bene. Radio 24. La passione si sente.